fare tutta la... Ristoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed è il momento di darvi il benvenuto all'interno dei nostri studi radio, o meglio, ve lo do io il benvenuto all'interno dei nostri studi radio, perché voi potreste essere in ogni parte del mondo a fare qualsiasi azione nel mondo in questo momento e vi tengo compagnia. Sono Master Nick, vi parlo dalla web radio del ristorante Convento di Lonato, che si chiama appunto Ristoradio Convento, per un altro sabato dinner and dance da vivere insieme, da vivere live, come ci piace dire, dal momento dell'accoglienza, quindi dal momento in cui i nostri ospiti, i nostri festeggiati entrano nel nostro locale, fino al momento in cui li salutiamo intorno alle 3:30 del mattino, dopo che si sono sfogati ben bene con la musica da discoteca che da anni ci caratterizza. E da qualche anno ci caratterizza anche questa peculiarità, chiamiamola così, questa chicca del nostro spazio radiofonico, che poi apriamo ai festeggiati, apriamo a tutti coloro che vogliono provare l'esperienza di raccontarsi al microfono, semplicemente raccontare la loro festa, raccontare il loro evento, raccontare la loro serata speciale. Siamo qui anche per loro, siamo qui soprattutto per loro, e grazie al nostro spazio 5 minuti di ci fa piacere conoscerli meglio, ci fa piacere che loro stessi presentino la loro festa e il perché si trovano qui. Lo faremo anche stasera, ma prima un po' di come dire, compagnia, come vi dicevo prima, negli affari della vostra giornata, in qualsiasi azione stiate compiendo, è sempre un piacere che sapere che la musica tiene compagnia, e speriamo anche una voce amica, una voce che vi possa accompagnare appunto durante questi momenti. Abbiamo già detto tanto, poi ci saranno un po' di presentazioni, ecco, da fare rispetto agli eventi, ai prossimi eventi, alle prossime date già calendarizzate qui al Convento di Lonato. Vi racconterò qualcosa e poi staremo insieme per qualche minuto prima di lanciare la palla girevole, dorata, quella che si vede anche in discoteca, al nostro DJ Gali e al nostro DJ Alex Angioletti per lo spazio Dedicomania, per ricordare tutti i festeggiati e celebrarli al meglio, come ci piace fare all'inizio di ogni serata danzante, quando ci trasformiamo in discoteca da ristorante che nasciamo, ecco, all'inizio della serata stessa. Dicevo di musica, andiamo con un grandissimo artista e la prima canzone del suo nuovo album Deluxe, che sta andando veramente forte. Lui è Ed Sheeran. Find the lovers at the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm in love with your body. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be. I'm in love with your body. Every day. Ed Sheeran, Shape of You, sempre in diretta su Ristoradio Convento con Master Nick. Non sono solo perché è venuto a trovarmi il nostro fido DJ Alex Angioletti, che saluto, appassionato di radio anche lui e come me, insomma, non resiste al fascino del microfono e alla possibilità di fare due chiacchiere e scambiare quattro parole. Ma perché no? Buonasera a tutti e benvenuti ancora su Ristoradio Convento. Ecco, Master Nick, la sua voce è inconfutabile. Ah, addirittura, addirittura, grazie. Allora, pronto a brevissimo per cominciare a far muovere il bacino, i piedi, le gambe, le ginocchia, tutto quello che si può dei nostri ospiti. Mi hai descritto come un professore, un ginnasta, un istruttore. Tante cose, anche come mi piace, io ho sempre immaginato, o meglio, mi piace immaginare i DJ in una immagine mista tra un interruttore della luce, che quindi fa click clack, che ti accende proprio l'energia, l'energia. Ma anche forse ancora più calzante, la manovella, comunque il pulsante del volume. Again, esatto, che prima. Poi sì, beh, insomma, comunque la levettina classica del volume, che puoi alzare o abbassare, perché la caratteristica, la peculiarità principale di un DJ è comunque gestire la serata, saper leggere anche la serata e saper accendere o spegnere il pubblico in base alle esigenze della stessa. Okay. Quindi è come se ci fosse un virtualissimo pulsante del volume, esatto, che alza e abbassa il mood della serata stessa. Scusa un attimo, facevi prima a dire che era un mixer. No, mixer è troppo complicato. Poi alla fine quello è, bisogna sapere vedere, ecco, il pubblico com'è, che si ha davanti e riuscire a... Com'è il tuo mixer qui di fronte? Com'è? È bello colorato, sono tante lucine, sembra veramente il portale di un'astronave. Pensate che quando l'abbiamo ordinato, la prima cosa che abbiamo chiesto al negoziante è che sia colorato. Sì, così almeno anche a luce spenta si vede. Okay, e okay. Poi soprattutto è anche molto affascinante vedere tutte queste lucine e tutti questi colori. A proposito di colori, abbiamo appena ascoltato Ed Sheeran, che direi che si caratterizza e si è caratterizzato nel mercato mondiale per la sua capigliatura rossa, perché insomma è un segno che lo contraddistingue, no? E che comunque ha dato un'immagine positiva del cantante. Pensa che c'è stato un inedito proposto, mi sembra, X Factor. Carota. Sì, bravo. Da parte di un ragazzo che aveva fatto non so quanti Sì, sedicenne che ha fatto 2,5 milioni di visite, sì, più o meno. Sì, visualizzazione per una cazzata supersonica di Carota. Eppure funziona. Dicevo, di Sheeran, nato nel Regno Unito nel 1991, non so se lo sai, ha avuto una vita piuttosto travagliata, perché come tutti gli artisti già da piccolo, ovviamente... Quindi è di Brescia. No, non è di Brescia, non è di travagliato. Dicevo, come tutti gli artisti, impazzito per la musica già da tenera età, ma ha dichiarato lui stesso... Cosa ha dichiarato? Che prima di diventare famoso nel 2014 con il primo album, che è stato X, cioè proprio scritto X, ha venduto la bellezza di 8,5 milioni di copie. Sì. Così, tutti parenti. Tutti parenti. 2014. Sì. Dicevo, prima di questo grande successo dichiarato da lui stesso, non poteva permettersi nemmeno l'affitto di una camera, di una stanza e tutto il resto. Non è l'unico. E ha passato qualche notte sotto i ponti. Non è l'unico. Perché non aveva più soldi, perché lui credeva così tanto in questa sua carriera, in questa sua vita d'artista, da non vedere nessun'altra via d'uscita. E quindi, come dire, ci ha creduto tantissimo, però ha dovuto scontrarsi con questa difficoltà e che poi però si è tramutata in un successo interplanetario. Però questo tipo di vita, questo tipo di strada che l'ha portato al successo, lo rende, stando agli addetti lavori, uno dei cantanti e artisti più umili nel panorama internazionale, diciamo che non si è ancora montato la testa. Non si è montato la testa. D'altronde era meglio di non montarla la testa, perché sennò diventava una capigliatura un po' complicata. Esatto, troppo complicata. Ma un italiano che... Non dico che sia andato a dormire qualche volta sotto i ponti, ma quasi quasi era probabilmente al limite della povertà. Chi è stato, secondo te? Non lo so, mi manca. Fedez. Davvero? Sì, Fedez è nella merda più totale. Sì? Sì, sì, sì. Ho visto. Ma questo quando? Beh, prima di diventare Fedez. Sì, prima di diventare ufficialmente, commercialmente Fedez. Però ha tentato veramente tutte le strade. Sì. Addirittura chiedendo i soldi in anticipo alla nonna. Grande. E che ha detto: nonna, sei l'ultima mia spiaggia, se per favore mi puoi finanziare almeno l'uscita del CD, perché ci sto credendo, sono circa, credo, un paio di migliaia di euro. Ma ok. E invece, ecco, ha avuto fortuna. È andata poi bene. Avevano dovuto vendere il bar della famiglia, il mutuo che incalzava, il papà che ha perso il posto. Quindi comunque un supporto forte da parte dei familiari. Fedez, che da un punto di vista giornalistico, diciamo che adesso è fermo per un paio d'anni, ha proprio dichiarato che si vuole fermare per stare vicino alla famiglia, poi tornerà in pompa magna come sempre. Però attenzione, al contrario di Shira, lui si è montato la testa. Eh beh sì, poi il successo ha dato la testa. C'è stato un suo carissimo amico, che è un J-Ax, che ha detto che è un cretino perché spende 200 euro solo per una t-shirt. Però beh, c'è qualcun altro che ne ha rubate 50. Ma cosa saranno? Ma cosa sarà? Oddio, quanto ero alto. Ma cosa saranno mai? Saranno tutte magliettine di carta. Bella questa è forte. Per chiudere la parentesi musicale con Ed Sheeran e tornare a un piccolo paragone con la musica italiana, sì, ha anche dichiarato che a metà tra il suo sogno realizzato nella vita, sì, e l'artista che più l'ha colpito in termini chiaramente positivi è stato Bocelli, con cui ha duettato nel brano Perfect Symphony, sì, qualcosa, sì, del, sì, genere. Molto, molto richiesto. Sì, sì, esatto, la grande ballata. Però lui ha proprio dichiarato, ovviamente conoscevo Andrea Bocelli per la sua caratura internazionale e per la sua qualità, ma quando me lo sono visto davanti, quando ci ho duettato, quando ho cantato insieme a lui, ho veramente capito che era un artista incredibile e mi è venuta quasi la pelle d'oca a duettare con lui. Per il discorso che ti facevo prima, comunque un artista che rimane umile e riesce ancora ad emozionarsi di fronte a un totem, della musica come Andrea Bocelli. Quando smetterà l'emozione vuol dire che è meglio che cambi il mestiere. Assolutamente sì, pienamente d'accordo. Facciamo ascoltare qualcosina di un altro che le ha tentate tutte, ma in questo caso gli è andata bene perché aveva una band di successo enorme, sì, e ha detto: ragazzi, sapete cosa c'è? Io ce la posso fare anche da solo, ve lo dimostrerò. È uscito da quella band ed è diventato anche qui un nomino così. Lo conosci? Robbie Williams si chiama, sì, mi pare. Sì, sì, lo conosco. Boh, magari lo ascoltiamo. Love My Life. Find the courage to face. and finally Love My Life, Robbie Love Williams, life. Che abbiamo detto, carriera solista andata alla grande. Abbiamo parlato prima di Ed Sheeran, che l'ha indovinato. Attenzione, Robbie Williams, da non confondere con Robin Williams, compianto attore, bravissimo, personalmente uno dei più bravi della storia. Purtroppo ancora tanti confondono i due nomi e non riescono a dare un volto al cantante e un volto all'attore. Si distinguono, tranquilli. Sì, sì, si distinguono. Dai, dai tatuaggi. No, anche, però purtroppo i nomi non sono ancora in alcune persone non sono ancora chiari. Quasi omonimi. Quasi omonimi. Allora, a proposito di cinema, visto che abbiamo parlato di Robin Williams, o meglio, ricordato Robin Williams e il suo ruolo di attore, a proposito di attori, ti racconto le nuove uscite cinematografiche. Ti piace il cinema? Sei appassionato? No, non sono molto cinefilo. Beh, perché anche lì uno coi cani e uno penso ecco, cinofilo. Vabbè, quindi non sei appassionatissimo. Non ho tempo. Allora ti lancio così un'uscita che secondo me però può interessarti, perché parla di musica. Ok. È di grande storia della musica. Sì. Il film si chiama Yesterday. Yesterday? Il film si chiama Yesterday. Perfetto. E capirai bene che si riferisce, o meglio richiama, i Beatles, la grande band di Liverpool. Come funziona praticamente? È un trailer, dai. Sì, facciamo un trailer, un riassunto brevissimo. Praticamente è un mondo parallelo, diciamo così, che non è datato, cioè non è un futuro, non è un passato, è semplicemente un mondo parallelo da cui il protagonista si risveglia, tra l'altro regia di Danny Boyle, che è un grandissimo regista. Okay. Dicevo, il protagonista si risveglia in questo mondo parallelo in cui i Beatles non esistono. Non esistono. E gli regalano una chitarra, non mi ricordo se è il suo compleanno, insomma, per un evento speciale, gli regalano una chitarra e lui per provarla canta una delle canzoni che sa meglio, che è Yesterday dei Beatles. Esatto. Yesterday dei Beatles, bravissima, bellissima. Ma l'hai scritta tu? E lui, come no? Come non l'ho scritta io, ragazzi? Paul McCartney, Beatles, cioè insomma la storia della musica. Quindi del loro pop. Confermano che non si e conosce. nessuno conosceva i Beatles, tant'è che lui corre a casa, si connette ad internet, cerca su Google sia il nome della band che i nomi dei componenti ed esce nessun risultato corrisponde alla ricerca. Sai quella chiave di Google quando che non trovi nulla? Oggi veramente esatto, tanto. È impossibile. Eppure lui non trova nessun risultato per i Beatles, e cosa fa? Decide di approfittare della situazione. Questa è bella. Perché il mondo non conosce i Beatles e decide di farli conoscere diventando lui stesso. Facendo tutte e quattro. Facendo tutte e quattro, perché si mette a comporre, o meglio, a fingere di comporre le canzoni dei Beatles, quindi a farle ascoltare a tutti. E caso vuole che diventa, stranamente, perché le canzoni sono bruttine, un'icona del pop mondiale. Diventa famosissimo, fa tour internazionali in tutto il mondo facendo solo canzoni dei Beatles. Però posso dire, credo che abbia avuto magari l'idea di fare sul concertino in terrazzo. Non lo so, non ho visto quella scena. Ho visto un concerto davanti veramente a centinaia di migliaia di persone. E c'è proprio scritto nel trailer che diventa una star internazionale, chiaramente impadronendosi di canzoni non sue e di brani non suoi. Però, insomma. Ne ha approfittato. Chissà che se bene o male. Ma in quel mondo i Beatles non c'erano, non c'era. Quindi e sono serviti anche lì. E sono serviti perché allora li ha fatti conoscere allora lui. Piace i Beatles. Funziona. Piace anche nel mondo che non esatto, ecco, funzionano anche. E questa è la chiave per far capire che funzionano anche a degli sconosciuti. Ok. Tu approfitteresti della situazione? Assolutissimo. In un paragone universale. Io sinceramente assurdo. Sì. Allora, se mi trovassi nelle stesse condizioni dello svegliato, ok? Lo dico, magari mi. Allora facciamo così, creiamo una mini trama, cioè tu ti svegli e chi vorresti non fosse conosciuto per prendere le sue sembianze, le sue canzoni? Guarda, già sto veramente facendo così con le manine. Ah, strusci. Alla zia Paperone. Sì, centesimi. David Guetta. David Guetta. Uno così. David Guetta. Beh, David Guetta direi che ha portato la dance a un livello pop, a un livello commerciale veramente. Abbraccia tutti, dai, sostanzialmente. Sì. Però è un grande perché... ci ha visto lungo, eh? Sì. Guarda che certi artisti, magicamente, possiamo anche dire una cosa che secondo me è la verità. Sembra che abbiano la sfera. Esatto. Sono avanti a tutti. Io forse ti dirò una cosa estrema, ma io ci credo veramente. David Guetta ha inventato un genere musicale, certo, che è la pop dance. Sì. Perché ha reso veramente quello fattibile, che è un genere di nicchia, l'ha reso popolare, l'ha reso per tutti, ma l'ha reso semplice, l'ha semplificato. La collaborazione è quella che dà il risultato. Noi siamo prontissimi. E detto questo, noi siamo prontissimi per la serata. E guarda un po' cosa ci regala la nostra programmazione musicale. Sì. Una canzone che non ha bisogno di presentazioni. Davvero. E infatti non lo faremo, perché parliamo della storia della musica. Abbiamo parlato del film Yesterday e andiamo ad ascoltarci i Beatles con Twist and Shout, una delle più belle. Vi salutiamo, un saluto da Master Nick. Da Alex Angioletto è tutto. Comincia il sabato Dinner and Dance del convento di Lonato. A presto. Ci siamo. E avanti con la nostra programmazione musicale. Ciao. So fine.